una macchina alla fine di una strada senza luce, c'è il silenzio dell'amore, dove è andata la mia voce, la mia voce. La tua bocca sulla mia, mille alberi d'intorno, sono savia o sono pazza, c'è la notte, vedo giorno, vedo giorno. E corri, corri, mio povero cuore, son sette volte che cerchi l'amore, son sette volte che provi l'illusione, sarà un principio, sarà una fine. Stiamo ritornando a casa, stamattina ero normale, ora sono innamorata, innamorata. Vedo il mondo all'incontrario, c'è un palazzo, vedo un fiore, ma la cosa più pazzesca è che ancora vedo il sole, vedo il sole. E corri, corri, mio povero cuore.